La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 11 secondi, siamo in diretta in questo mercoledì, grazie di ascoltarci in podcast qui dagli studi di Milano e naturalmente io ringrazio anche chi manda le mail perché ci sente la mattina, ogni mattina dalle 8:15 alle 9 siamo in diretta, io e Alessandro Milan in Attenti a noi due, e quindi grazie per ascoltarci anche la mattina. Allora vi dico subito di cosa parliamo oggi, un tema un po' particolare che viene dalle vostre segnalazioni. Vi ricordo come sempre per proporre temi, ospiti o per proporvi come ospiti della trasmissione su un tema, la versione di Oscar @radio24.it, mentre per telefonare sul tema che adesso vi introduco 800 24 00 24, siamo qui in diretta per chiamarci, e 349 238 6666 per gli sms. Di cosa parliamo oggi? Molti di voi nei mesi, a dire la verità, quindi non è cosa di strettissima attualità, è una tendenza del risparmiatore inquieto, per così dire, molti di voi quando i mercati ballano, A, B, quando, non di questi tempi visto che lo spread oramai va sotto quota 100, sui titoli del debito pubblico italiano dei paesi latini si balla la rumba, quando cambiano significativamente nel giro di poche settimane gli equilibri dei tassi di cambio monetari, molti di voi fanno una domanda rituale e dicono: ma è giusto o meno questo impulso che io provo a tesaurizzare e non in investimenti, quindi azionari, obbligazionari, in titoli di Stato? Regolarmente la domanda che è collegata di solito è collegata all'oro: ma è giusto continuare a considerarlo un bene rifugio? A questo proposito, chi volesse telefonare per dirci se tesaurizzate o meno e a quel punto di che cosa vi fidate, se comprate i rand sudafricani o che cosa, è il giorno giusto per farlo, per dirci perché non vi fidate e che cos'altro scegliete, ovviamente. E lo sfondo ovviamente è che gli italiani in questi anni hanno iniziato a fidarsi meno degli acquisti in mattoni per considerare sicuri i propri investimenti, alla luce del calo verticale ovviamente dei valori immobiliari per effetto dell'aumentata tassazione. Ogni tanto, oltre a loro, sono arrivate delle domande su altre forme di tesaurizzazione considerata al sicuro, per così dire, dalle oscillazioni dei mercati. E oggi parliamo esattamente di una delle domande che più mi incuriosiva, perché negli anni, insomma, hanno iniziato a venire solo negli ultimi paio d'anni questa richiesta, e alcuni di voi chiedevano: ma senta un po', ma dei diamanti bisogna fidarsi? Allora voi in ascolto direte: ma queste sono cose da ricconi, eccetera eccetera. Ma guardate che le lettere provenivano da insospettabili risparmiatori che non dichiaravano, non so se fossero sinceri, chissà quante milioni da parte, però il problema loro era: io non li voglio rischiare perché ci ho rimesso sulle obbligazioni di questo tipo, perché ci ho rimesso sulle azioni della Banca Popolare che mi ero comprato. Devo dire che le ultime mail venivano esattamente da azionisti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, o di Banca Etruria, cioè di quelle che sono andate a gambe all'aria nell'ultimo anno. E allora, siccome oggi capitava a Milano per caso uno degli italiani che si occupa professionalmente di questa faccenda di diamanti, mi sono detto: è la puntata giusta per dare una risposta a chi chiedeva: ma se io volessi davvero prendere qualche diamante per metterlo da parte, nella realtà come faccio a capire qual è il prezzo giusto? Perché ad averci scritto era chi, essendosi interessato, aveva ricevuto delle proposte, di società che sono controllate dalle banche, e però diceva: ma a me sto prezzo come faccio a verificare se è quello giusto o meno? Ecco, allora, per capire come si fa a giudicare della, tra virgolette, bontà del prezzo di un eventuale diamante, oggi è la puntata giusta, perché è con noi Marcello Manna. Marcello Manna è un italiano che opera professionalmente alla Borsa Inversa dei Diamanti, cioè quella che storicamente nei secoli è il punto di riferimento dove si scambiano e si valutano innanzitutto la qualità di queste gemme. Fa questo di mestiere, spesso viene interpellato esattamente sul punto appunto di cui parliamo oggi, ma come si fa a capire qual è il prezzo giusto? Come si fa a capire una serie storica degli avvaloramenti per tipo di diamante e così via? È qui in studio oggi pomeriggio e io lo ringrazio. Buon pomeriggio Marcello. Buon pomeriggio Oscar e buon pomeriggio a tutti. No, prima però ci devi spiegare com'è che uno come te finisce professionalmente ad Anversa a occuparsi di diamante? Ma dire per caso sembrerebbe eccessivo. Per caso? No, per caso no, perché qualche anno fa, qualche decennio fa ormai, nell'azienda di famiglia passavano pietre di ogni tipo, perché mio padre si occupava della fabbricazione e la vendita di gioielli. Ah. E io ritenevo questo assurdo. Questo in che parte d'Italia? Sud, Napoli. Napoli. Ritenevo assurdo che con il passaggio sotto agli occhi di tutte queste pietre preziose nessuno ne capisse nulla, perché è così, cioè arrivavano domande sia dal gioielliere sia... non del pubblico che comprava, no, proprio degli operatori? Noi eravamo rivolti solamente agli operatori professionali. Quindi eravate dei grossisti. Ed era allucinante. Cioè, non ne capivano nella media? No, facevano domande per cosa dovevano spiegare alle persone quando vendevano un certo pezzo. E a nostra volta dovevamo chiedere al fabbricante... Ma questo molti anni fa e nel frattempo si è evoluta la conoscenza non media? Non mi mettere in imbarazzo. Ah, ho capito la risposta. Quindi non mi mettere in imbarazzo. Non so se avete capito voi che siete a casa, quindi pensateci bene dove le comprate. Non i mi mettere gioielli. In imbarazzo. E ritenevamo assurdo in famiglia che si continuasse così. E subito dopo l'università sono partito per una formazione adeguata all'Istituto di Gemologia Americano. Ovviamente una preparazione molto molto specifica, molto profonda. La passione e la curiosità hanno fatto il resto, non mi sono più fermato e dopo lunga attesa sono entrato a far parte prima della borsa di Tel Aviv in Israele e poi della borsa di Anversa dove attualmente lavoro. Ah, e quindi sono un bel po' di anni oramai. Sì, sono 20. 20 anni? Sì. Ma c'è giovanissima per questa storia, perché poi non so, voi non lo potete vedere, ma in realtà è un giovincello questo signore che c'è dietro. 45 anni. 45 anni. Allora, la prima domanda è: chi volesse prendere in considerazione questa idea? Innanzitutto, è da considerare davvero, come loro tradizionalmente, un bene rifugio di tesaurizzazione del diamante, se uno vede l'andamento dei prezzi nel settore storico, o no? Guarda, allora, in un difetto proprio della commercializzazione del diamante forse risiede il suo attuale pregio, perché il diamante è una delle materie prime non finanziarizzate. Nel senso, siccome esistono circa 16.000 categorie brevettate dalla De Beers, non esiste un indice, un fondo, un ETC, qualunque un cosa futures. Che lo replichi. La rovina dell'oro e purtroppo anche del settore dell'oreficeria in Italia è proprio iniziata quando è partito il primo ETC in Australia, che cosa ha fatto? Ha consentito a flussi di denaro di entrare nel mestiere. Perché a quel punto, come ovvio, per gli ascoltatori non tecnici, la parte di flusso finanziario che scommette sui futuri andamenti si ricopre rispetto alla possibilità che non siano che non assecondino la tendenza, diventa enormemente maggiore di quello che si investe nel settore. Esatto. Come è evidente alla ricerca del guadagno finanziario sulle oscillazioni di prezzo, come è evidente. E il prezzo aumentò... sul diamante questo effetto non esiste. Non può esistere, perché le categorie ne sono talmente numerose per cui è impossibile creare tanti fondi. 16.000 futures. 16.000 sono di quelle brevettate, incrociando tutte le qualità, sì, di grezzo della De Beers. Poi queste 16.000 diventano pietre tagliate. Quindi in realtà è vero che ogni pietra è diversa dall'altra. È proprio vero. C'è un caso, quando si prendono le misure, si mettono due pietre una accanto all'altra, i millimetri che si possono riscontrare sulla certificazione si vedrà, non sono mai uguali. Quindi si può dire le pietre sono simili, si possono creare combinazioni di similitudine, ma non di parità. Aspetta, che nel frattempo c'è una notizia urgente dai nostri ascoltatori, perché le agenzie hanno informato che un italiano è stato rapito nel sud musulmano delle Filippine, un ex sacerdote sequestrato nel suo ristorante da 7 uomini armati, un ristoratore oramai di professione lì, ex sacerdote missionario, è stato rapito oggi appunto da questi 7 uomini armati nel suo caffè pizzeria Dipolog City nel sud delle Filippine, dove sono attivi purtroppo numerosi gruppi separatisti musulmani. E questa notizia rimbalza però dai media locali, quindi non c'è ancora alcuna informazione diretta. Naturalmente appena sapremo qualche cosa ve ne informeremo. Allora, stavi dicendo Marcello, questa enorme varietà, ogni pietra è diversa dall'altra, però questo significa che è molto complicato per chi volesse comprare effetti di tesaurizzazione capire primo se davvero funziona e secondo qual è il prezzo. Se fosse facile lo farei per me. Ho capito. Però siccome da un'osservazione, io non nascondo che io osservo da operatore, osservo quello che succede. È chiaro che come ogni bene materiale le oscillazioni di prezzo sono date dalla domanda e dall'offerta. Sì. Quindi se si riuscisse a replicare per il diamante ciò che avviene per i beni di consumo, a loro volta con le tendenze dei gusti dei consumatori, in linea di massima si potrebbe anche interpretare una linea di investimento, un piano di investimento per acquistare diamanti. Però questo lo può fare un consulente altamente esperto che conosca il vero andamento dei prezzi. Vogliamo sinteticamente spiegare a chi è a casa in base a quali criteri si valuta la purezza, quindi anche il valore del tipo di diamante? Poco più di 100 anni fa un gioielliere negli Stati Uniti fu animato dal mio stesso, veramente sono stato io, sono stato animato dal suo stesso punto, ma non lo sapevo, ma lui si rese conto insieme ad altri colleghi, disse: ma noi non possiamo andare avanti così, noi non possiamo vendere pietre preziose senza capirne nulla. E da lì partì la più grande, attuale ancora, scuola e ente di formazione per il mondo della gemologia, che è il GIA, il Gemological Institute of America. Da lì hanno dato luogo all'associazione dei gioiellieri americani, che a loro volta fondarono il GIA, un ente no profit, per diffondere la cultura delle pietre, e loro hanno inventato la classificazione dei diamanti. Nel 1931 hanno inventato i quattro criteri che classificano un diamante, che per sintetizzare sono molto sono semplicissimi, perché è una chiave, è una traduzione al pubblico per comprendere la qualità di un diamante. Sono la purezza, si chiamano 4C per clarity e purezza, color e colore, poi c'è cut che è il taglio, e poi c'è carat che è il peso. Questi sono i quattro pilastri per la classificazione del diamante. Bisogna dire che sono proprio l'inizio per la classificazione di un diamante, non sono che il debutto, perché è veramente per comprendere la natura di un diamante. Io proprio l'altra mattina, dopo 3 settimane, ho avuto una classificazione di un diamante che era particolarmente complesso, perché oggi ci sono tali e tante tecnologie, a volte in contrasto fra di loro, cioè che sottoponendo la stessa pietra a un test gli esiti sono diversi. Sì, che l'esito può essere... Un momento, aspetta, hai introdotto un argomento ancora più complesso. Gli esiti sono diversi anche a seconda del laboratorio di gemologia, è come un'azienda di rating. Ah. Dare un grado di valutazione al diamante è differente in base all'agenzia di rating a cui ti rivolgi. Allora, tu sai che nella realtà per l'occasione standard per milioni di maschi italiani, naturalmente con diversi livelli di prezzo, per avvicinarsi a un diamante nella vita, è quando si tratta ritualmente di impegnarsi, tempo si faceva, continua a fare così, con la fidanzata, per dire ci sposiamo. Meno male. Ecco, poi dopodiché c'è chi si può permettere di comprarli più spesso, ma in quel caso, quindi non stiamo parlando dell'investimento a fini di tesorizzazione, del fatto di regalare un anello o dei pendenti con diamanti e così via, alla luce dei criteri che ci hai detto, siccome di solito quello che il compratore medio che non ne sa nulla, si trova un certificato dove c'è una lettera, di solito, poi naturalmente in carati, il taglio e così via. E tutti poi tra di loro si confrontano dicendo a seconda della lettera, mentre il criterio, come ovvio, del peso in carati, comunque più o meno tutti quanti capiscono cosa vuol dire. Arriva. Sul resto non è che proprio ci sia, però questo significa che in realtà ognuno può fare il prezzo che vuole o no? Il prezzo che vuole proprio non lo si può fare. La prima cosa, prescindendo dall'investimento, nel senso l'acquisto a fine di investimento, parliamo ancora di acquisto per i fini ludici, nel senso per ornare la propria amata. I fini edonistici. Esatto. Un acquisto edonico, come si dice in gergo. Rivolgetevi assolutamente innanzitutto a persone che abbiano la competenza, e che questa competenza sia pubblica, nel senso che abbia competenza. Tu ci hai appena detto prima che il gioielliere non ce l'ha. No, momento. Che abbia competenza e che abbia un giro d'affari, che abbia sottomano, abbia la possibilità di che venda, insomma, valutando, guardando le vetrine, guardando il proprio assortimento, di provare. Questo significa andare da Tiffany o da grande gioielleria. Sì. No? Questo sì, ci stai dicendo, sì, in altre parole. No, no, i piccoli gioielli in ascolto naturalmente insorgeranno. Non voglio penalizzare, però purtroppo una delle componenti che ha inciso molto negativamente sull'attuale stato del consumo di gioielli in Italia è la mancata chiamiamola preparazione. Comunque c'era un po' di disattenzione su questo versante, e invece il pubblico oggi, grazie a internet, quando entra in un negozio spesso ne sa più del gioielliere. Quindi, i ragazzi ormai, quindi, per la scelta, diciamo così, appunto edonistica, edonica, grandi gioiellieri. Invece adesso arriviamo al punto, perché ho una domanda da fare sulle variazioni di prezzo molto rilevanti che alcuni di voi che hanno scritto hanno riscontrato e sono andati anche a leggere sui settimanali finanziari trovandone conferma. Però di questo parliamo tra un minuto, perché prima c'è l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:47, primi e 16 secondi. Stiamo tentando di rispondere a alcuni di voi che chiedevano informazioni, oltre che sull'oro, anche sui diamanti, a fine di risparmio, effetto tesaurizzazione. E con noi Marcello Manna, che si occupa professionalmente alla borsa dei diamanti di Anversa. Vi leggo intanto alcuni vostri sms, poi c'è una telefonata, in maniera tale che vi possa rispondere. E gli premetto anche la domanda che gli faccio anch'io, perché il problema è che alcuni di voi ci scrivevano dicendo: però qui vediamo che diamanti che a noi sembrano non troppo diversi hanno prezzi molto diversi, essendoci rivolti a società espressione proprietà delle banche. E quindi il dubbio che aveva chi ci scriveva, dice: ma non è che le banche sopra ci vogliono truffare? Ecco, questa era la segnalazione. E alcuni dicevano anche: del resto ho visto che ne hanno scritto i settimanali finanziari e pare proprio che sotto ci sia qualcosa che non torni. Quindi, nel mentre io faccio la domanda, leggo a Marcello anche alcuni dei vostri messaggi. Intanto complimenti a Luca, perché io la penso come lui. Luca si chiede: ma dov'è questo effetto del quantitative easing di Draghi? Fiorino svedese forever. Io la penso come lui, io sono uno scettico dichiarato dei quantitative easing, sono in minoranza, lo sapete, e quindi da questo punto di vista capisco chi fa altre scelte di investimento valutario. Poi invece un'ascoltatrice ci chiede: ma a spanne qual è la percentuale di diamanti tarocchi che gira sul mercato? Poi Elisa vuole sapere: ma quanti sono veri e quanti invece sono sintetici? Perché naturalmente io non sono in grado di giudicarlo, mi devo affidare integralmente a quello che mi dice la persona che me ne propone l'acquisto. Quindi tanto queste domande qua. Sentiamo poi invece che cosa ha da dire Andrea da Pistoia, di cui mi segnalano. Andrea, buon pomeriggio, grazie di essere con noi, che è un gioielliere. Ma ci contavo sul fatto che qualcuno di voi avrebbe chiamato. Buonasera signor Giannino, no, le volevo dire semplicemente, c'è da distinguere due cose. Se uno vuole fare un investimento, allora il diamante, secondo il mio modesto parere, è l'ultima cosa. L'oro, sì. il metallo giallo è l'investimento, sia per tutelare i soldi, che non si perde il valore, sia per rivenderlo, perché se uno vende l'oro puro, in Italia è legale comprarlo, sì. non si dice, non lo dice nessuno. Ma è legale, ma come Salli che è autorizzato a vendere l'oro al privato, ok? Quindi accende un computer, quanto costa l'oro? 32 euro e qualcosa oggi. Quanto sì. lo pago? Quanto lo rivendo? Uno lo vede quanto costa. Sì, sì, sì. Ma io dico... capisci, signor Giannino? No, la capisco, sì. Senti un attimo, mi scusi, Certo. Uno lo vede quanto costa, va al Banco Metalli che lo può ricomprare, gli dice: quanto mi dai? Oggi costa 32, ti do 30, no, non mi interessa, vado da un altro. Il diamante, signor Giannino, io che faccio gioielleri da 20 anni, va bene? Lo compro, perché io me li monto da solo, lo compro da un brillantaio che mi fa un prezzo di 100 euro, ok? Di un diamante G, VS1, VS2, colore e tutto il resto, taglio, giusto? E lo rivendo a quanto voglio io, giusto? A quanto voglio io, al doppio, a meno del doppio, un 20, un 30% sopra, come è nel mercato, ok? E anche da chi ho davanti, perché funziona anche in questo modo. Chi compra un diamante per investimento, giusto? E lo ha certificato nel certificato tutto bellino, IGI, GIA e via. quando lo compra e lo paga 10, giusto, non sto a vedere la qualità ora perché non è quello importante. Valore ipotetico. Quando lo va a rivendere e me lo rivende a me o a un altro, dipende se ne ho bisogno. No, no, Andrea ci sta semplicemente spiegando che da questo punto di vista è ovvio che la quotazione di riferimento fatta sui mercati, eccetera, eccetera, e nonché sui futures dell'oro, ha una diversa e molto più agevolmente percettibile sensitività. Ecco, invece stiamo parlando, per questo stiamo tentando di dare delle risposte sui diamanti, appunto. Sentiamo Massimo da Roma. Massimo, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Posso parlare? Certo. Ok, io volevo un pochino argomentare rispetto a quello che si era detto sul fatto che i grandi gioiellieri o le grandi firme solamente hanno la conoscenza dei diamanti. Io ho fatto il formatore, ho lavorato per 23 anni nel più grosso marchio italiano, non facciamo il nome. Va bene. E la parte del mio lavoro era proprio quello di occuparmi della formazione dei venditori di gioielli, appunto, in tutto il mondo. Beh, allora posso dire che sì, effettivamente le grandi aziende spendono soldi e spendono appunto formatori come me per formare il personale, che però non sempre è così formato come si pensa. Ma allora è una Massimo, è una conferma di quello che abbiamo detto, o no? No, è perché si stava dicendo che comprare un diamante si deve fare solamente dai grossi marchi, dei grossi marchi che appunto hanno della formazione, però non sempre questa formazione è così specifica. Ecco, anche nel caso dei grandi. Grazie di questa testimonianza, Massimo. Ancora la telefonata di Fausto da Bologna. Prego, Fausto. Ale, buonasera. Buonasera. Buonasera, Giannino. Complimenti per la trasmissione. Sì, ascolti, una cortesia, siccome sentivo che c'era un esperto. Le banche che offrono questi piccoli investimenti con tagli vari dai 5.000 euro. Ma io di questo stavo parlando. Questo, giusto per capire, siccome me l'hanno offerta, ecco. Allora per capire se ne vale la pena o meno. Ecco, allora, lei fa la stessa domanda che ho fatto io, perché in realtà era la domanda, non so se era lei ad avermi mandato la mail. Allora Marcello, ti ricordo, quanti sono sintetici, come si fa a capirlo, quanti sono tarocchi e poi queste delle offerte delle banche? Allora, i sintetici sono ancora una quantità limitatissima e non sono per il momento non sono assolutamente un problema per le transazioni sul mercato. Secondo, e l'industria cerca di proteggere continuamente da questo. Secondo, per la signora, i tarocchi, non tarocchi, il discorso è simile. Per quanto riguarda le banche, poi vorrei ritornare anche sui due ascoltatori di prima. Certo. Per quanto riguarda le banche, come ci si informa quando si va in banca e si chiede il classico investimento redditizio e sicuro? L'investitore, il cliente, la banca si informa, chiede agli amici, va in altre banche, eccetera, eccetera. Così dovrebbe fare anche per i diamanti, si dovrebbe informare. I diamanti sono regolati da un listino ufficiale, ma questo non significa che sia pubblico, è ufficiale ma non è riservato agli operatori. Il Rapaport è coperto da diritto di autore, però come vedi chi deve andare a comprare non può consultare. Ma frugando su internet esistono dei, per esempio negli Stati Uniti il prezzo di vendita normale al pubblico è già il prezzo di quotazione Rapaport. Ormai io ritengo la velocità ormai si è accorciata da internet. Un po' di anni fa i fenomeni in Italia arrivavano dopo 20 anni, ma adesso con internet arrivano dopo un po' di tempo. Penso che si arriverà a breve a questo, e mi riallaccio all'intervento del gioielliere di Pistoia. Lui diceva: io lo vendo a quanto voglio io. È proprio quello il problema dell'industria, è proprio quello il problema. Se lui non si aggiorna, ne può vendere uno, ne può vendere due, ma le sue considerazioni anche sull'oro, che quello sì che è un investimento, lui configura l'investimento solo perché conosce il prezzo ed è pubblico. Quando si arriverà a un prezzo pubblico anche per il diamante, anche quello lo sarà. E allora il problema è che a quello bisogna arrivare, proprio, perché sennò nel frattempo basta fare un banale paragone tra i prezzi che vengono offerti dalle società controllate dalle banche sui diamanti, per scoprire che ci sono differenze del 200-300% per pietre che sembrano analoghe. Sono qualitativamente, tranquillamente confrontabili con quelle che ha il gioielliere sotto casa e hanno prezzi anche del 300% superiore. E allora io ho l'obbligo di dire, cari amici e caro ultimo ascoltatore, pensaci bene prima di comprarlo in banca, perché devi fare un raffronto e devi andare da una persona che ti dà accesso alla quotazione del listino Rapaport, perché negli Stati Uniti, come vedete, il mercato è più tutelato e più trasparente. Altrimenti non decidete da soli, perché, ripeto, pigliate delle fregature. Cari signori in ascolto, questa trasmissione non era dedicata per chiedere a vostro marito, al vostro fidanzato, un diamante domani. Questo lo devo dire in fondo, perché io ho già assolto con mia moglie, ma insomma ho anni per piangere. Grazie a Marcello di essere stati con noi. Grazie. Appuntamento domattina alle 8:15 e poi alle 4:30 domani.